Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona Pasqua a tutti voi in contatto con il Groove Master Studio per un nuovo appuntamento del Soundcheck, la prova del suono, e buona Pasqua da Gegè Telesforo a tutti voi, ma anche a Francesco Tromba. Tanti auguri. Ti vedo con il sorriso, probabilmente avrei fatto un bellissimo pranzo di Pasqua con la tua famiglia, io invece mi sono tenuto leggero per affrontare questo appuntamento, quest'altra giornata di musica, quindi una leggerissima insalatina ho mangiato. Dai, però senza capretto, che Pasqua è? Mi rifarò però con il tuo uovo di Pasqua. Sì, l'hai visto? L'ho visto, non è bellissimo. No, perché anche la confezione è un po' calabrese. Eh sì, è fatto in casa. Non è industriale. E chi come l'ha gli fatto? Altri. L'ha fatto mia nonna. Con una ricetta classica della sì, zona. Un'antica ricetta maya. E addirittura. Sì, cacao. Calabro maya. Sì, sì. Cacao e peperoncino. Ecco, e figurati, quindi insieme. Con effetti collaterali che possiamo immaginare. Sì, quasi un super tonificante, un Viagra naturale. Vabbè, non ne parliamo oggi, visto che è una giornata di festa, è una giornata, la giornata di Pasqua. E come la vogliamo affrontare musicalmente parlando, lo abbiamo già detto ieri. Oggi parliamo dei primordi della soul music. Sì, di quando andiamo a riscoprire i primi dischi di quelli che poi sono diventati dei punti di riferimento della musica soul, quando ancora magari erano in cerca di se stessi e non erano del tutto formati. Ecco, e per dare il via alla puntata, allora non possiamo non presentarvi quella grande voce, quel grande talento di un signore che diventò di lì a poco, quindi vi stiamo parlando della fine degli anni 50, primi anni 60, The King of Soul in persona, ovvero Sam Cooke, nato il 22 di gennaio del 1931, scompare l'11 di dicembre del 1964, potrei dirlo morto ammazzato. Sì, è decisamente morto ammazzato, tra l'altro una delle morti più misteriose. È un delitto terribile, sì, ma ne parleremo dopo. Perché è importante Sam Cooke per la storia della black music? Non solo perché aveva una grandissima voce, una facilità nell'interpretazione delle sue composizioni, quindi vocalist, songwriter, ottimo performer, ma soprattutto è stato anche il primo artista nero a capire che doveva diventare indipendente per avere più introiti, quindi crea la sua etichetta discografica e anche la sua società di edizioni. Sì, diventa produttore di se stesso già più di 60 anni fa, adesso lo fanno tutti. Quindi ha aperto una strada, una sì, nuova sì. Mentalità. Sam Cooke apre il soundcheck con What a Wonderful World e auguri a tutti di buona Pasqua. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La splendida voce di Sam Cooke, The King of Soul, al soundcheck di Radio 24. Questo signore scompare a 33 anni. Aveva 33 anni, una moglie e una Ferrari decappottabile. Sam Cooke, alla vigilia di Natale del 1964, dopo una bella cena con il produttore lì a Los Angeles, nel ristorante, conosce una ragazza di 22 anni, di aspetto orientale. E a Sam Cooke le ragazze piacevano parecchio. 10 anni prima, infatti, ne aveva messe incinta 3 nell'arco di 2 mesi e poco dopo ne aveva sposata un'altra. Ma, come si dice, non perde, perde il pelo ma non il vizio. Sì, un gran Latin lover. Ecco, che cosa combina l'ultima sera della sua vita Sam Cooke? Allora, la ragazza in questione si chiama Elisa Boyer. In questo caso lui cerca appunto di provarci in tutti i modi. E alla di fine... rimorchiare. cavarsela. Sì, finiscono in un motel fuori città, un motel anche abbastanza squallido, scarso. Sì. Squallido. Lì ci sono diverse versioni in realtà. La versione di Elisa Boyer, che sarebbe la vittima, fra virgolette, dice che lui era un po' strano, ha tentato di violentarla e lei scappa via. Lui esce dalla camera, da questa camera di motel nudo, sì, mezzo nudo, e va nella hall dove trova la receptionist, ha una colluttazione con questa receptionist che prende la pistola e gli difende. Spara. Spara Sam Cooke. Spara Sam Cooke. Quindi così perdiamo Sam Cooke. Sì. Fatto sta che ha lasciato Sam Cooke in eredità a tutti noi un bel repertorio. Sì. Allora andiamo con Moving and Grooving Sam Cooke al soundcheck. I got a girl and man, she's also fine. Someday I'd like to make her mine, oh mine. She's fine, but she won't give me a chance. When I want the sweet talk, all she wants to do is dance. Oh, let me tell you, she likes the moving and the grooving. Man, she likes the moving and the grooving. Be a man, I've gotta be a man if I'm gonna stand a chance. If I'm gonna make her my woman, I've just gotta learn to dance. Now you oughta see me, I'm doing the moving and the grooving. Yeah, I'm doing the moving and the grooving. We're rocking the night out and the day in. We're doing the swishing and the swaying. Now I'm. E Sam Cooke ha stimolato la carriera poi di grandi artisti, da Aretha Franklin a Bobby Womack, Al Green, Curtis Mayfield, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Billy Preston, tutti figli musicalmente parlando e artisticamente del grande Sam Cooke, the King of Soul. E dicevamo, ha ispirato in qualche modo anche Aretha Franklin, che stava quasi per firmare un contratto discografico con l'etichetta di Sam Cooke. Sì, per Aretha Franklin Sam Cooke era un punto di riferimento in quel momento, e Sam Cooke, come tutti gli artisti neri di quel periodo. Sì, tra l'altro Sam Cooke la seguiva, andava ad ascoltarla quando suonava, però il padre di Aretha Franklin spingeva di più per la Columbia Records, perché anche la Columbia stava seguendo Aretha Franklin, anche se in realtà non ci puntava forte. Infatti all'inizio della carriera di Aretha Franklin è abbastanza difficile, non riesce a guadagnare tantissimo, anche perché la Columbia firma con lei un contratto come 5% artist, quindi guadagna realmente poco. Il 5%. E allora da The King of Soul Sam Cooke passiamo a The Queen of Soul Aretha Franklin con Exactly Like You al soundcheck. Know why I've been blue, yeah. Cause I've been waiting here for somebody, baby. Ah, yeah, exactly like you. Uh-huh. Sound check. Il suono della musica. I told you then, you needn't ever. Oh, suono della soul music è protagonista del soundcheck di oggi in questa domenica di Pasqua, la voce infinita di Aretha Franklin da uno dei primi album, il brano era I Told You So, e anche Aretha Franklin, considerata poi The Queen of Soul, ha avuto un periodo non così fortunato all'inizio della sua carriera. Sì, nei primi 6 anni di carriera ha avuto diverse difficoltà. Intanto era già una donna formata, aveva già avuto 2 figli a 15 a 17 anni, quindi già questo è un punto di partenza abbastanza difficile per quegli anni. Tra l'altro una donna, musicista, cantante. Ecco, hai detto bene, hai detto musicista, perché è anche una bravissima pianista Aretha Franklin. Sì, viene magari vista inizialmente con sospetto, cioè viene considerata un'artista minore, come poi realmente fu considerata dalla Columbia Records inizialmente. Però lei, nonostante tutte le difficoltà, continua a crederci. L'errore iniziale su cui era stata formata la sua carriera era di farla diventare in un certo senso l'imitatrice di artiste come Malia Jackson e Clara Ward, che erano delle cantanti gospel dell'epoca. È un errore che è comunque una convenzione che veniva fatta anche da altri artisti, come vedremo poi più avanti. Sì, anche perché comunque anche Aretha Franklin proviene da una famiglia che frequentava il gospel della Chiesa Battista. Il papà era un predicatore. Sì, era un reverendo. E quindi si sono tutti formati con il repertorio degli spiritual e del gospel, e infatti ha questa venatura soul tipica del genere. Ma Aretha Franklin all'inizio della sua carriera canta anche un repertorio venato di blues e particolarmente jazz. Sì, il suo merito è quello di comunque non aver mai smesso di credere in se stessa e nelle sue capacità, nel suo talento. Infatti poi dopo questi 6 anni inizia una carriera strepitosa che la porta a diventare proprio la regina del soul. E purtroppo noi non riusciremo mai a vederla dal vivo. Intanto adesso proprio ha deciso di non viaggiare più, ma non lo ha mai fatto dopo la scomparsa di Otis Redding, perché si rifiutò di prendere aerei e quindi di volare, quindi difficile vedere Aretha Franklin dal vivo. Potremmo prenderlo noi in aereo, dai. Ma comunque Aretha Franklin con It's So Heartbreaking. So heartbreaking when the one you love is in love with somebody else, when somebody you've been dreaming of is in love with somebody else. You can keep on smiling though the rent is due, keep on walking though you've got a hole in your shoe. But it's so heartbreaking when the one you love and it thinks your love is a joke. Oh, you gotta keep on living till the day you die, but you're so disgusted that you wonder why. 'Cause it's so heartbreaking when the one you love is in love with somebody else. I said that it's so heartbreaking when the one you love is in love with somebody else. It hurts so bad, yes it does. So heartbreaking when the one you love is in love with somebody else. The man really turns his back. E dalla voce infinita della regina del soul Aretha Franklin passiamo a un altro protagonista del genere, che qui però ascoltiamo con una composizione che non è proprio del repertorio black, soul e R&B, ma che appartiene al repertorio quello più caraibico. Sì, perché negli Stati Uniti di importazione arrivarono altre sonorità, quelle che arrivavano da Cuba, ma anche le canzoni messicane, e quindi un campione di soul music come Ben E. King, un bel giorno, credo intorno alla fine degli anni 50, decide di realizzare un album utilizzando questo tipo di materiale. Sì, l'album si chiama Spanish Harlem, recupera le sonorità spagnole, latineggianti del Cuba, del Sud America, e come abbiamo ascoltato anche quando abbiamo parlato di Macito. Sì, nella puntata del jazz abbiamo parlato di Macito con Maestro Conghero, che arrivò negli Stati Uniti, lì a New York, e mise su una bellissima big band. Quindi anche in questo caso è una versione, diciamo, di fusion soul, potremmo dire. E allora, Amor, Ben E. King al soundcheck. Amor, amor, amor, my love. This word so sweet that I repeat means I adore you. And amor, amor, my love. Would you deny this heart that I have placed before you? Soundcheck. Yes. Il suono della musica. I can hear the sound of violin long before it begins. Make the rhythm as you know how. Sway me smooth, come on and sway me now. Make the rhythm as you know how. Sway me smooth, come on and sway me now. Dopo l'informazione di Radio 24, eccoci qui con il soundcheck, ancora la voce di Ben E. King con Sway, un brano che è tornato in auge dopo la versione di Michael Bublé, mio caro Francesco Tromba. Sì, c'è questo recupero anche da parte di artisti super commerciali come può essere Michael Bublé. Bene, in questa domenica di Pasqua vi avevamo promesso una puntata Super Soul, quindi continuiamo così con un altro protagonista del genere, anche qui un predicatore come solo Solomon Burke. Ecco, Solomon Burke potremmo definirlo proprio un esemplare di uomo. Io l'ho conosciuto quando in televisione presentavamo quel bellissimo programma di musica chiamato Doc, quindi vi sto parlando dell'87, anzi protagonista proprio della prima puntata di Doc, Solomon Burke, che già allora aveva un peso intorno ai 250 kg, credo. Un reverendo grasso. Di dimensioni abominevoli, molto divertenti, saliva sul palco con un mazzo di rose e distribuiva rose a tutte le ragazze. Un provolone. No, un grande artista Solomon Burke qui al soundcheck con How Many Times. Ma tutti gli artisti della soul music avevano un punto di riferimento. Anche lo stesso Sam Cooke, The King of Soul, amava lo stile di Nat King Cole. Sì, alla fine è stato il primo afroamericano a raggiungere vero e proprio successo, un grandissimo pioniere anche lui, è stato il primo ad avere la conduzione di un programma radiofonico fra gli afroamericani. E poi il primo a condurre un programma televisivo negli sì, Stati Uniti. Anche se non ebbe una grandissima durata a causa appunto del fatto che era afroamericano. Sì, purtroppo. Nel 1948 Nat King Cole comprò una casa in un quartiere molto ricco di Los Angeles. Sì, il vicinato, con la riunione del vicinato, gli fecero presente che non volevano che persone indesiderabili si trasferissero nel quartiere. E lui rispose con una frase grandiosa: neanch'io. Se vedo che qualche indesiderabile si trasferirà, qualche persona indesiderabile si trasferirà qui, sarò il primo a lamentarmi. Certo. Allora, Nat King Cole con Route 66, un classico del suo repertorio. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. Soundcheck, il suono della musica. She's such a sweet a woman, I'll never let her go. Cause deep down inside of me, Lord knows I love her so. I'll keep rolling with my baby. I'll keep rolling with my baby. I'll keep rolling with my baby, 'cause she's sweet that way. Non poteva mancare naturalmente The Genius of Ray Charles, Roll With My Baby, qui al Soundcheck. Ray Charles, campione di vocalità, con la sua voce poteva cantare di tutto e ha cantato di tutto. Allora, dal jazz, standard di jazz, ha cantato soul music, ha inventato quell'incredibile genere che era a cavallo fra il gospel e la soul music, ha cantato anche repertorio country e folk music, poteva fare qualsiasi cosa. Tra l'altro un eccellente pianista, e ne parleremo poi nella seconda parte del soundcheck di oggi dalle 19:15, perché ascolteremo Ray Charles come pianista. Sì, ha anche cantato una canzone di Toto Cutugno nel Festival di Sanremo. Cantato di tutto, sì, Ray Charles. E tra l'altro era un uomo molto ricco e anche un po' avido. Forse sì, immagino. Sì, di ha sì, fatto magari... pubblicità, te lo ricordi? Protagonista di una pubblicità di automobili. Sì, è stato. È lui cieco che girava nel deserto sorridendo con questa macchina. Immagino anche la canzone di Toto Cutugno avrà preso un po' di soldi per farla. Tu dici, beh, no, l'avrà fatto proprio per il rispetto artistico, Richard. Infatti, quella non canzone non venne mai pubblicata da nessuna etichetta. Ah, no? Non autorizzò la pubblicazione. Mai distribuita. Dovremmo chiederlo a Toto Cutugno. No, infatti, intervista. Allora, tra l'altro ne ha passate di tutti i colori, sì. Con droghe, alcol, e ha fatto soffrire molte donne. Sì, tantissime, almeno 7, da cui ha avuto più di 12 figli diversi. Eccolo qui, Ray Charles con Hallelujah, I Love Her So. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I come from 1 to 4, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's alright. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her. Oh, hallelujah. Don't you know? E allora chiudiamo questa puntata di domenica, di questa domenica di Pasqua, sempre con il sound di The Genius Ray Charles, dandovi appuntamento alle 19:15 per la seconda parte di oggi. Ray Charles, un innovatore, è stato il primo a utilizzare uno strumento in studio di registrazione chiamato Wurlitzer, un nuovo piano elettrico sul quale, strimpellando, creò forse la composizione più famosa, una composizione che rivoluzionò il suono del soul e dell'R&B, ovvero What I Say. Sì, Ray Charles, dal mio punto di vista, anche dalla mia esperienza personale, anche la sua musica unisce, secondo me, le generazioni, perché piace tantissimo a me, piace tantissimo a mio padre. E piace a mia figlia. E piaceva anche al mio insegnante di matematica, col quale ci scambiavamo i dischi di Ray Charles. Ma pensa te, What I Say con Ray Charles, ci risentiamo più tardi. Ancora auguri di buona Pasqua da Gegè Telesforo. E da Francesco Tromba. Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Turn it on, turn it on. Pronti per la seconda parte del soundcheck, prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi, ancora auguri di buona Pasqua da Gigi Telesforo e da Francesco Tromba. Ecco, abbiamo chiuso la prima parte di questo pomeriggio con Ray Charles e vorremmo riprendere subito il suono lì dove l'avevamo interrotto, ovvero il talento di Ray Charles non solo come cantante, ma veniva apprezzato anche come meraviglioso pianista. E nel 1960, dopo aver ottenuto già grandi consensi con le sue pubblicazioni per l'Atlantic, a Ray Charles viene fatta una bellissima proposta, quella di realizzare un album intitolato The Great Ray Charles, dove lui non deve cantare, ma deve solo ed esclusivamente suonare il suo pianoforte. E per fare ciò viene radunato a una super big band diretta da dei campioni di musica. Sì, questo disco è fantastico, devo dire. Io non lo conoscevo, io conoscevo solo Ray Charles nella versione di cantante showman, anche perché lui riusciva a caricare il pubblico in una maniera fantastica. Bastava solo guardarlo, anche se lui non faceva niente, ti metteva comunque il sorriso. Questo disco è veramente bellissimo, un disco completamente jazz ma anche innovativo. Assolutamente sì, e tra l'altro c'era un giovanissimo talento come arrangiatore e anche compositore, un ragazzino potremmo definirlo, Quincy Jones, che scrive questo brano intitolato The Ray per Ray Charles, artista con il quale poi in seguito collaborerà per grandi successi discografici. Quincy Jones con la big band e Ray Charles in The Ray al soundcheck di Radio 24. Ebbene sì, oggi stiamo celebrando il grande Ray Charles anche in questa seconda parte del nostro soundcheck, quella più jazz, ma naturalmente con questo brano intitolato The Ray per l'arrangiamento di Quincy Jones, Ray Charles dimostra di essere un fuoriclasse anche sul pianoforte, una grande venatura blues e soprattutto un senso ritmico che manca in alcuni casi anche a grandi pianisti di jazz. Ma tu l'hai conosciuto Ray Charles, sì, giusto? Sì, io l'ho conosciuto Ray Charles, purtroppo non partecipò mai ad hoc, non so per quale motivo, tentammo più volte di coinvolgerlo in trasmissione ma non riuscimmo mai a ottenere la sua partecipazione. Fatto sta che proprio in quel periodo la mia amica Didi Bridgewater mi chiamò per comunicarmi che sarebbe arrivata in Italia, credo forse poteva essere il 1990, per partecipare a un programma di Pippo Baudo intitolato Serata d'Onore, e quindi siccome si doveva esibire in quella trasmissione proprio in compagnia di Ray Charles, pensai bene che forse era arrivato il momento di conoscere The Genius in persona. Quindi mi presentai lì nel camerino del teatro di Montecatini Terme, dove si faceva Serata d'Onore, e Didi Bridgewater mi presenta a Ray Charles. Fatto sta che non so se posso continuare l'aneddoto, perché mi sono trovato di fronte a un dubbio amletico. Ovvero? Ovvero se partecipare a una sorta di operazione mistica insieme a Ray Charles o se tirarmi indietro. Fatto sta che non lo feci e quindi fui quasi, non voglio dire costretto, ma fu mai, come dire, un calumet della pace insieme a Ray Charles. E quindi siete uniti o disuniti da questa cosa? No, siamo uniti da questa cosa. Sono stato battezzato da Ray Charles fumando un come dire, uno spinellone con lui. E sono cose da musicisti, mio caro Francesco, a volte bisogna dirle. E un giorno, quando scriverò il mio libro, il primo e l'unico, racconterò per filo e per segno anche questo aneddoto. Bellissimo. E tu dici? Allora andiamo con la musica, Ray Charles con la grande orchestra diretta da Quincy Jones, e questo un super classico scritto da Bobby Timmons per Art Blakey e Jazz Messengers nella versione di Ray Charles intitolato Moaning. Soundcheck, il suono della musica. Thank you. E qui il suono cambia, ma non il repertorio, perché John Scofield qualche anno fa celebra Ray Charles con un album prodotto per lui da Steve Jordan, eccellente batterista R&B e jazz, e questa è la loro versione di Hit the Road Jack. Per dire, non si butta nulla, mio caro Francesco, quando vuoi fare il musicista da grande devi conoscere il passato, vivere il presente e essere proiettato nel futuro. È sempre così, altrimenti non diventerai mai un gran musicista. Ed ecco perché è un grande musicista John Scofield, che ha il suono nelle dita, perché molti pensano che per avere il suono riconoscibile hai bisogno di quell'amplificatore, di quella chitarra e di una moltitudine di effetti, ma John Scofield, così come Pat Metheny e i grandi chitarristi che hanno fatto la storia anche di questo strumento, quando tocca la chitarra ha il suo suono inconfondibile, qualsiasi chitarra. Eh sì, è ben centrato, trasmette lui stesso la sua personalità, è la sua personalità. Una grande produzione discografica per John Scofield, che ha suonato con tutti, con i più grandi, ha suonato anche con Miles Davis, era in giro per tanti anni con la band jazz rock di Billy Cobham, finché poi non ha trovato la sua strada a cavallo fra il jazz rock e la fusion, e continua a divertirsi portando in giro sempre eccellenti talenti, e ultimamente si è divertito ancora una volta in studio con il trio Medeski, Martin e Hood, con i quali celebra Eddie Harris con questa composizione intitolata Sometime. John Scofield al soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Secondi per dirmi il titolo di questo brano. È Azzurro. È certo, come si fa a non riconoscere la composizione più famosa di Paolo Conte, Azzurro, che qui diventa quasi uno standard jazz New Orleans nella versione di Echoes of Swing, una band composta da musicisti americani e tedeschi, band diretta dal sassofonista Chris Hopkins, che è anche un eccellente pianista, per la pubblicazione della ACT, premiata casa discografica tedesca, album intitolato Good Time Jazz recente, dove troverete questa versione di Azzurro di Paolo Conte. E vedo in scaletta un altro grandissimo standard. Eh sì, perché se Azzurro in questa versione diventa quasi uno standard, c'è poi una composizione che è stata una composizione scritta da un grande compositore, un grande interprete italiano, che è diventato uno standard del repertorio dei grandi artisti americani. Sì, uno dei cantanti preferiti di mia nonna. E anche uno dei miei artisti preferiti, ho avuto l'onore di conoscerlo tanti anni fa, il signore, il grande maestro è Bruno Martino, che scrisse quella splendida melodia intitolata Estate. E qui io te la propongo, mio caro Francesco, per chiudere il soundcheck di questa domenica di Pasqua, nella versione del maestro John Hendricks, che ha scritto il testo originale in inglese. Infatti il brano si intitola In Summer, anche se a me piace di più in italiano. Anche a me. A tutti voi ancora buona Pasqua e buona Pasquetta per domani. Vi auguriamo una splendida Pasquetta ricca di musica e di belle note e di cibo pure. Pure, perché no? Auguri ancora a tutti, ci risentiamo sabato prossimo con il soundcheck.